na na na na na na. Ruleu, salen top un paya. Regala luz, sorrisa, chincane del bisogno. En le parole non valen niente, no. Sorriso, cincane de ne bisogno. A te non costa niente, a loro va a derare un sogno. E le parole non valeno niente. Se ti sperde non c'ha l'aria, se fa una cosa falla e basta. Regalano un sorriso, cincane de ne bisogno. A te non costa niente, a loro va a derare un sogno. E le parole non valeno niente. Se ti sperde non c'ha l'aria, se fa una cosa falla e basta. Guarda lì, vedi e non te ne frega niente. Guarda lì, tu ridi e sei felice, non pensi alla gente. Loro piangono la povertà, la fame. Noi ne lamentiamo perché non sappiamo. Manco ce pulimo e già tenimo tutto, ma noi non ci credimo. Pulimo la cosa fascia, stiamo a passo con la moda. Pullamo e siamo alla D-Way. Tipo guardami, le paro sexy, sexy, sexy, sexy. Regalano un sorriso, cincane de ne bisogno. A te non costa niente, a loro fa derare un sogno. Se le parole non valeno niente, se ti sperde non c'ha l'aria, già fa una cosa falla. Regalano un sorriso a cincane de ne bisogno. A te non costa niente, a loro fa derare un sogno. Se le parole non valeno niente, se ti sperde non c'ha l'aria, se fa una cosa falla e basta. Un cuore spezzato e un sogno cancellato. Donne bagnate da grisce a mezzo le strade menato. Senza noi gioco che passa lo tempo e tu stai già tranquillo. Andarsi a casa con la mamma sua. Io me lamento che sto solo dopo quello che è successo. Non metto a cucchiare nessuno, no. Poi mi hai vinto compenso, d'aiuto io tutto quello che posso fare lo pazzo. Regalano un sorriso a cincane de ne bisogno. A te non costa niente, a loro fa derare un sogno. E le parole non valeno niente, se ti sperde non c'ha l'aria, se fa una cosa falla e basta. Regalano un sorriso a cincane de ne bisogno. A te non costa niente, a loro fa derare un sogno. E le parole non valeno niente, se ti sperde non c'ha l'aria, se fa una cosa falla e basta. Lo guardi schifato come siete diverso a te. Se credi in ciallo Dio, allora rispettali. Con quattro sordi li può di catare uno stozzo di pane. Farlo mangiare bene e poi lo senti. Grazie, te senti dire grazie, ma grazie con lo cuore. Con un sorriso felice perciò ha fatto del bene. Se l'hai fatto un cede, mo' lo pizzico d'amore. Mantienilo e no, non lo lasciare mai.